Buonasera, benvenuti su Radio ZAM. Io sono Anai del gruppo Ippolita. Buonasera a tutti, sono Bombo Clat del collettivo Autistici Org. Abbiamo appena finito questa serata di presentazione del libro di Indie Media, proprio qui nel cortile di ZAM, che si chiama Millennium Bug, una storia corale di Indie Media Italia. E Bombo Clat era tra gli ospiti. Sì, è vero. Nel suo primo intervento ci ha accennato qualcosa che vorremmo approfondire. Vogliamo rifargli un po' la domanda. A un certo punto hai parlato di una serie di fasi nella rete di internet. Hai Sì. detto che adesso siamo in una nuova fase. Cosa intendevi dire esattamente? Dal mio punto di vista, quando cercavo di riferirmi a diverse fasi di internet, mi riferivo al diverso modo di intendere l'accesso alla rete, ovvero negli anni 90 accedere alla rete significava, come interazione, diciamo, con un'entità economica, significava comprare un tot di banda e poter accedere a internet da casa propria, no? Per cui compravi l'ADSL, quello era il prodotto di internet, non c'erano molti altri prodotti in internet all'inizio. Mentre invece, e quindi quando tu accedevi a internet comprando un prodotto, che era la DSL, per esempio, nel 2000, accedevi poi però a una rete che si valeva principalmente del fatto che la net neutrality era il concetto guida di questo modello di business, per cui tu compri un tot di banda, poi i dati che passano su questa banda sono affari tuoi, nel senso non stiamo monetizzando quelli all'inizio, no? Stiamo semplicemente dicendoti, se vuoi questa quantità di banda, questo è il costo. Questa era l'interazione economica tra me e la rete. Poi, una volta in rete, principalmente c'era da scriverla la rete, no? Di scrivere, pubblicare il proprio sito e fare queste cose qui. O scoprire la comunicazione con IRC, i vari protocolli, eccetera. Però era appunto una palestra di informazione, educazione a le possibilità possibili, e sono uscite anche delle innovazioni da questo periodo, no? E Ok, questa è la fase 1. facciamocela Fase 2, bastare per no? ora. Fase 2. Se ripenso, allora, facciamo un salto in avanti. Quando siamo arrivati noi abbiamo approcciato internet in questo modo. Quando passano 20 anni e internet è un fatto sul cellulare, no? Il tuo accesso a internet non è più quella sfida di dire ok, la mia relazione intanto col capitale è quella di compro la banda e poi ho finito la mia relazione col capitale, nel senso che da lì in poi è la prateria, no? Mi riferivo un po' alla prateria. Quello che succede adesso è che invece uno dei problemi su cui noi ci scontravamo era che era difficile imparare, no? E quindi non tutti potevano seguirci allo stesso passo. Nella fase 2, diciamo, l'accesso a internet diventa una parte, una interazione come mille altre legata al tuo telefonino, per esempio. Per cui tu c'hai il telefonino che ha un costo e dei dati che puoi trasmettere, eccetera. Questa è una relazione similare alla DSL. Poi, quello che però ti si presenta non è internet, non è più la prateria, è una serie di app, di walled gardens, no? Che sono la lottizzazione di quella che era la net neutrality, no? La banda libera, diventa invece la lottizzazione di alcuni perimetri di un business entro i quali tu ti vieni autoconfinato. E siccome internet ti viene presentata in questa forma, che è molto accomodante perché ti vogliono utente, non ti vogliono conoscitore, ti vogliono utente e ti vogliono partecipe dell'intrattenimento. Quindi tu devi scrivere cazzate e gli altri ti devono dare like, oppure ti devi incazzare, devi fare i meme, queste robe qua, tutte queste attività. E sei tu il prodotto però. Non sei più nella rete dove tu costruisci qualcosa. Per esempio, anche una minchiata, no? Un particolare. Però io su IRC facevo gli emoticon. Ok? Emoticon era due punti, chiusa parentesi, ho fatto uno smile. E lì facevi quasi un atto artistico, nel senso che cercavi di cambiare il segno della comunicazione e dire si può fare anche visuale, posso esprimere il mio volto, che non si può fare perché è tutto testo. Internet era così. Adesso nelle app hai gli emoticon. Ma quelli non te li inventi più, te li hanno già preparati, tu devi solo cliccarci, li devi usare. Però un conto è partire dal punto di vista, io scrivo tanto e mi invento un nuovo linguaggio coi segni della tastiera e faccio anche ASCII art, no? L'invenzione di dire andiamo oltre lo smile, faccio proprio ASCII art, come dei disegni con la mia tastiera. Lì io ho la proprietà di linguaggio, la proprietà di capire che ho uno strumento per esprimerlo e che ci posso inventare un nuovo linguaggio che è artistico. Quindi faccio tutto il lavoro di elaborazione quando partecipo al gioco di Scopriamo Internet e il computer, anche solo la tastiera, non lascia proprio l'esempio alla tastiera. Invece dopo passi avanti e arrivi al cellulare, ti do l'app e c'è anche già lo smile pronto. Tu sei il consumatore passivo degli strumenti che ti sono stati dati e ti limiti a eseguire quello che lo strumento ti offre, ovvero a me scrive una cosa, io gli metto la faccina. E il mio linguaggio si è impoverito, perché a questo punto la faccina non è più la mia invenzione sopra il linguaggio che io già padroneggio, è la semplificazione del mio linguaggio, per cui io mi esprimo a segni invece che a parole, no? Mi autoriduco. Perché adesso dobbiamo mandare in giro i meme per far capire che c'è una enciclopedia da leggere? Perché fondamentalmente Indie Media a oggi è un'enciclopedia da leggere, però dobbiamo fare i meme, perché se non ti do il meme, il linguaggio immediato del meme, che è un linguaggio, però è comunque un obbligo dal quale devo passare per avere una viralità in questi strumenti, no? Ma guarda, mi verrebbe da citare Snow Crash. Quando penso ai meme penso subito a Snow Crash, penso al fatto che nel romanzo Snow Crash i meme vengono fatti risalire all'origine della scrittura e quindi all'impero sostanzialmente sumero, credo fosse proprio sumero, e ahimè di Enki, da cui poi i meme si chiamano così perché in realtà traggono questa origine, quantomeno nel nome, dall'idea dei me di Enki, che erano delle istruzioni scritte, erano tavole di istruzioni sostanzialmente. E il modo in cui adesso Bomboclat fa riferimento ai meme è esattamente questo, cioè ti devo dare delle istruzioni estremamente semplificate per farti capire che in realtà c'è un'enciclopedia gigantesca che puoi andare a consultare se vuoi. E quindi in qualche modo siamo di fronte a quello che Akinbei definiva un bel collasso cognitivo. E certo, da una parte è intrigante, cioè dovremmo cercare di capire un po' quali elementi, c'è una forma di psichedelia in tutto questo, c'è una dimensione chimica fortissima nella relazione con i meme, con le tecnologie commerciali, sono estremamente sapide, è un po' come nutrirsi solo di croccantini per gatti. A un certo punto ti si asfalta la lingua ed è molto complicato poi riuscire a sentire degli altri sapori. Perché è un po' come offrire del sushi a della gente che è abituata a mangiare i croccantini. Quindi io capisco un tot di domande che sono saltate fuori anche stasera, che vi hanno fatto le persone anche dalla platea, cioè ci state dicendo di mangiare del cibo che non è nemmeno del cibo biologico, è una specie di è come se fosse del cibo d'astronauti, super, come dire, difficile da capire come fatto, perché e mi rendo conto che la narrazione da costruire è una narrazione molto complessa ed è e che dobbiamo metterci lì a pensare qual è il passaggio. La radio resiste, ok? La radio resiste. Se siamo qua e siamo in radio, certo, questo lo dobbiamo dire. Cioè, certo, la radio c'è, è la stessa di Radio Alice, sì, è uguale. Sì, assolutamente. Non so perché la radio regge e il resto invece vacilla, fluttua. E tu hai qualche idea nel merito? No, al momento non mi viene un'idea sul perché la radio non vacilli quanto. Poi, no, non saprei dirti, scusami. No, niente, figurati. Comunque, diciamo, la mia domanda era molto limitata alla questione delle fasi, come dire, delle fasi di internet, ovviamente al rapporto con il capitalismo e il fatto che, come dire, il web 2.0 e in particolare i social network siano estremamente sapidi, ovviamente, come dire, sono stati progettati così, non è un caso che siano così. L'interfaccia numerificata, in gergo gamificata, da gamification, deriva proprio da come dire, un principio mutuato dal mondo dei giochi, che è quello di introdurre all'interno di spazi che non sono di gioco delle regole di gioco, per cui sostanzialmente il social network non si presenta come un gioco, ma si nelle sue metodologie in realtà si comporta come un gioco, per cui tu acquisisci punti per aumentare di livello. Se hai tanti like, sei una persona più influente, hai un rating personale maggiore rispetto agli certo. altri. E ovviamente le regole sono intrinseche al sistema, nel senso che tu non devi leggere un manuale, sai già come dire, quali sono le regole dal momento in cui entri all'interno di quello spazio, che quindi diventa estremamente difficile da modificare, perché ovviamente il sistema di gratificazione della notifica e della numerificazione lavora su il piacere, e lavora chimicamente sul piacere, nel senso che noi abbiamo delle gran schicchere chimiche quando a un certo punto il picco si alza, tant'è che appunto si parla di reddito psichico, cioè la sensazione di aver guadagnato delle cose come se fossero dei denari, quando in realtà noi non stiamo guadagnando dei denari, stiamo semplicemente aumentando un nostro rating fittizio all'interno di uno spazio artificiale. E quindi sono affascinato dalle tue parole, ascolto. No, questo era perché ovviamente stavo così cercando di riagguantare la questione della seconda fase di internet. Io mi sono dedicata a questo negli mm-hmm. ultimi anni e per esempio ho lasciato molto da parte invece tutta la questione intelligenza artificiale, deep learning, machine learning, che invece è una cosa che in questo momento interessa molto la comunità europea, che sta cercando di normare l'intelligenza, che già di per sé comunque mi sembra un'operazione complicata, perché bisognerebbe sì. capire cos'è l'intelligenza. Tu per caso hai seguito? Ma guarda, sull'intelligenza artificiale mi è capitato per esempio di seguire un intervento in cui si parlava di antifascismo nell'intelligenza artificiale, che uno dice antitesi, no? Come si fa a mettere nell'antitesi? Però invece il ricercatore di intelligenza artificiale, che si riteneva anche un antifascista e che si ritrovava a confrontarsi con il fascino della nuova tecnologia, lui era uno dei promotori della creazione di ottimizzazione di questa tecnologia, però si poneva il problema del fatto che quando crei degli algoritmi e fai in modo quindi che delle informazioni vengano giudicate secondo delle regole che stanno in quell'algoritmo, tu crei un soggetto che non è fisico, ma è appunto nella macchina. L'algoritmo è nella macchina e funziona come una macchina. Ti dimentichi che l'ha scritto un programmatore, che invece è una persona con un background, dei sistemi valoriali, delle decisioni sui pesi da attribuire alle parole e ai comportamenti, agli indirizzi, a tutti i dati personali che può fruire di te. E magicamente, siccome si è come si può dire, è uscito dal suo corpo, è diventato un algoritmo nella macchina e quindi è il computer che ridà la risposta. Questa operazione, quando per esempio viene traslata da... c'è un ragazzo che scrive codice per fare deep learning o intelligenza artificiale, scrive algoritmi, eccetera. Lui lo dà al suo capo. Il suo capo è un'azienda che cerca di fare appalti, per esempio, con un'infrastruttura pubblica per offrire l'intelligenza artificiale per risolvere il problema della burocrazia, che è lenta. Non riesce a risolvere i problemi perché è ancora cartaceo, adesso è digitale, ma noi abbiamo next step, l'intelligenza. E allora il politico compra un prodotto tecnologico e lo ritiene, diciamo così, un valido alleato per risolvere un suo problema con i suoi elettori. La burocrazia deve diventare più veloce, per esempio il job center in UK ci mette troppo tempo in certe aree a dare lavoro. Ma adesso io, politico, mi hai votato, ho comprato questo prodotto e ho risolto il problema perché l'algoritmo darà le priorità giuste nel tempo giusto. E poi saltano fuori le discriminazioni. Forse Ken Loach ha fatto un film su questo. Però è giusto ripercorrerlo, perché saltano fuori le distorsioni dettate dal fatto che un ragazzo con un suo sistema valoriale ha deciso delle regole per un algoritmo che è diventato un prodotto, che è stato comprato da un politico, che ne ha fatto la sua campagna politica per rendere veloce la burocratizzazione e dare i lavori alla gente, e poi scopri che nel job center il nero che arriva da quella via, che ha certe proprietà, ha avuto degli attributi di peso di tutte le sue, cioè dei pesi per tutti i suoi attributi, e non è quello che dovresti scegliere per dare quel lavoro che è disponibile. È arrivata una nuova offerta di lavoro, quello giusto è un ragazzo bianco, ben educato, che arriva dalla via accanto dove non ci sono lo stesso numero di crimini, e quindi tutti questi valori uno se li giudica in assenza di una coscienza politica, pensa anche magari di fare il giusto e di esprimere il giusto, no? Il programmatore, non voglio colpevolizzare il programmatore, non necessariamente è un filo nazista, ma il risultato che ne può derivare quando poi dopo la distorsione da quel prodotto si fa una politica, e quella politica poi non la puoi contestare perché è il computer, è la macchina. Guardi, tu, io nero vengo nel job center e dico perché non mi dà il lavoro, guardi che non guardi me, io sono l'operatore, questo è l'algoritmo, ha ragione. E tu hai neutralizzato la risposta politica perché non c'è più l'interlocutore politico davanti, ti hanno messo davanti uno schermo che dice è giusto. Poi dopo vai a vedere che la polizia americana compra questi sistemi di intelligenza artificiale per giudicare la pericolosità degli individui che vengono fermati, e guarda caso tu sei nero, abiti di quella via, ti arresto e ti uccido. Ok. Sono okay, esempi, sì. Però fanno capire dove si va. Ti ho rotto già una volta stasera, Bombo. Io da posto di job devo andare a lavorare domani, quindi mi serve tutto, vi lascio qua in radio in altra compagnia. Ciao. Buone cose, ci vedremo. Ciao. Allora a questo punto noi, come dire, andiamo a continuare la nostra conversazione nel cortile di Zam. Grazie Bomboclat, grazie Indimedia. Grazie a te. Grazie Anai. Grande piacere.